era un luogo divino, era un luogo lontano da miserie, così almeno ci pareva, era un luogo immacolato, estremamente rustico, si dormiva tutti insieme in una stanza, c'era una grande cucina, il bagno, non so se così si può chiamare, era una casetta di legno a 50 metri dalla casa, senza porta perché l'ingresso dava sulla valle, tanto dalla valle non poteva vedere nessuno. E mio padre saliva periodicamente a piedi, con lo zaino lo metteva sul mulo, erano tre da Besanello, si saliva 3 ore, 3 ore e mezza a seconda della velocità, si saliva a piedi, 2, 3, 4, 5 volte all'anno quando aveva voglia, quando era periodo di caccia, quando voleva stare lontano dalla famiglia. Così a godersi un po' di solitudine e i miei fratelli furono ammessi presto anche loro a questi happening perché era una specie di happening. Alla fine fummo ammessi, non so, quando avevamo 8-10 anni, anche perché dipendeva la missione dipendeva dal grado di capacità di salire in montagna. In effetti era una salita molto dura, verso gli 8-10 anni anche mia sorella ed io fummo ammesse e fu una cosa, scoprire quei luoghi fu una cosa straordinaria. Si viveva in un altro tempo, lo capivamo anche a 10 anni, in un altro senza elettricità, senza acqua corrente, con l'acqua della piovana raccolta nel pozzo e più che nel pozzo davanti a casa c'era l'abbeveratoio. Si dormiva perciò alle 8 di sera appena faceva buio e ci si alzava alle 4. Ho sempre sognato, era un luogo dei sogni dove pensavo lì devo tornare, lì devo tornare. Poi quando ci sono tornata, molti anni dopo, ci sono tornata con la Jeep ed era tutt'altra cosa, perché era la conquista di salire là in alto. Adesso peraltro, ai tempi miei, quando io ci andavo, Malga Palazzo era come si dice, rabberciata, un po' sghemba. Molto molto molto molto rustica, adesso l'ho vista, è una casa, un meraviglioso palazzo è diventato adesso, restaurato secondo storicamente, insomma com'era, come pare fosse un tempo, da fuori stupenda, però io ho nostalgia di quel luogo molto selvatico, molto rustico. È così primordiale.